L'idea di farmi gli affari degli altri sarà anche nella mia natura, ma quando l'ho veramente fatto mi sono sempre sentito un cretino. Da quando ho deciso di saperne di più della storia della scatola, quella che ho trovato tra i tubi del mio bagno, mi sento un po' il tenente Colombo, ma senza impermeabile. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:08, questa è Radio 24, sono Matteo Caccia e sono qui. Sherlock Holmes tolse una bottiglia dalla mensola del caminetto e una siringa ipodermica da un lucido astuccio di marocchino. Con le lunghe dita bianche e nervose avvitò all'estremità della siringa l'ago sottile e si rimboccò la manica sinistra della camicia. I suoi occhi si posarono per qualche attimo pensierosi sull'avambraccio e sul polso, solcato di tendini e tutti punteggiati e segnati da innumerevoli tracce di iniezioni. Infine si conficcò nella carne la punta acuminata, premette sul minuscolo stantuffo, poi, con un profondo sospiro di soddisfazione, ricadde a sedere nella poltrona di velluto. «Beh, di che si tratta quest'oggi?» domandai io. «Di morfina o di cocaina?» Holmes alzò languidamente gli occhi dal vecchio volume in caratteri gotici che da poco aveva aperto davanti a sé. «Di cocaina», mi rispose, «in una soluzione al 7%. Vorrebbe provarla anche lei?» «No, grazie», replicai in tono asciutto. «Vede, Watson, il mio cervello si ribella di fronte a ogni forma di stasi, di ristagno intellettuale. Datemi dei problemi da risolvere. Datemi del lavoro da sbrigare. Datemi il più astruso crittogramma da decifrare o da esaminare il più complesso intrico analitico e io mi troverò nel mio elemento naturale. Allora non saprò che farmene degli stimolanti artificiali, ma detesto la grigia routine dell'esistenza quotidiana. Ho bisogno di sentirmi in uno stato di esaltazione mentale costante. Ecco perché mi sono scelto questa particolarissima professione. O meglio, me la sono creata dal momento che sono l'unico al mondo. Questo è l'inizio, sono proprio le prime righe del Segno dei Quattro di Arthur Conan Doyle, in cui si presenta uno dei personaggi più famosi della storia, non solo dei gialli e della letteratura, che è Sherlock Holmes, ovviamente. Sherlock Holmes è un personaggio particolare, nel senso che non è un buono. È un investigatore privato, no? E come tutti gli investigatori privati, sono dei personaggi un po' astrusi, cioè è gente che ha una vita assurda, spesso non sono sposati, non hanno una famiglia, vivono in case che sono trovate chissà come, chissà in che modo, non hanno soldi, non pagano l'affitto, alcuni sono drogati, alcuni sono alcolizzati, eppure hanno un fascino incredibile. Io è da quando ho 10 anni che, vabbè, alla domanda che lavoro volevi fare da piccolo, io rispondevo l'investigatore privato. Sono cresciuto in questo modo qua, leggendo, vabbè, non sono cresciuto solo leggendo Sherlock Holmes, ovviamente, anche perché non li ho letti tutti da piccolo e ancora non li ho letti tutti adesso, però leggendo Sherlock Holmes, leggendo Marlowe e poi ovviamente guardando il tenente Colombo, ma soprattutto Magnum P.I. chi non avrebbe voluto vivere alla Hawaii, in una casa che non era sua, guidare una Ferrari che non era la sua, con dei cani che non erano sua, cioè non c'aveva niente praticamente, c'aveva solo i baffi Tom Selleck. Eppure l'investigatore privato fa parte di ognuno di noi, cioè ognuno di noi dentro è un po' investigatore privato. 800240024 349-238-6666. Ho trovato sta scatola e fino a qua ci siamo, ok? Non capita tutti i giorni di trovare una scatola, non capita tutti i giorni di trovare una scatola con dentro delle foto, delle lettere che raccontano una storia. Però quando ho trovato quella scatola, la parte di investigatore privato che è in me è tornata fuori in maniera evidente, quindi io da qualche giorno sto facendo probabilmente anche cose che non si dovrebbero fare e che vi racconterò a breve, cioè cercare il modo per arrivare a quelle due persone lì, ad Agatha e a Vincenzo. Ora vi racconterò anche perché e come. Non sono l'unico però, perché se noi lasciamo per un attimo, direi non solo per un attimo, per tutta la puntata da parte gli stalker, cioè quelli che inseguono il fidanzato, la moglie, il marito, ecco, quelli non mi interessano, non li voglio sentire, è una roba che non si deve fare, non è carina e credo sia pure illegale, giusto? È perseguibile penalmente o civilmente? Non lo sappiamo, chi se ne frega, nessuno di noi è un giurista. Se c'è un giurista all'ascolto, 349-238-6666, lo stalking è penale o civile? Non lo so. Insomma, però, al di là di quelli, ok? Ognuno di noi, una volta nella vita, ha investigato su qualcosa. Avete pedinato qualcuno, l'avete seguito, l'avete aspettato sotto casa, non per forza perché interessava a voi, magari l'avete fatto per un amico, avete cercato di capire che cosa stava facendo il fidanzato, l'ex fidanzato di quella vostra amica che stava così male, magari per un cliente, no? C'è gente che lavora tipo in banca, quando apri un mutuo di fatto ti setacciano la vita e c'è qualcuno che fa quel mestiere lì, giusto? 800240024 oppure 349-238-6666. La sorella di Tiziano Bonini non ha parlato a sua madre per un anno era un po' troppo, per un mese, perché sua madre è andata a investigargli nel diario, quello che si teneva chiuso con il lucchettino, ok? I genitori che hanno cercato nelle cose dei loro figli è un modo per aver investigato. 800240024. E poi il mio sogno è che in questo momento, alle 16 e 13 minuti di un mercoledì qualunque, 10 novembre 2010, ci sia all'ascolto un vero investigatore privato. Cioè uno che lo fa di mestiere, che nella vita fa gli appostamenti, segue la gente, mette le cimici, si mette le penne nel taschino, quelle che hanno la videocamera. Perché leggevo l'altro giorno che ci sono questi negozi, hanno un sacco di clientela e gli va alla grande. Quindi ci sarà qualcuno che compra le cimici da attaccare. Come è fatta una cimice? Come funziona? 800240024 349-238-6666. Tipo, l'investigatore privato più famoso era Tom Ponzi, quello che io mi ricordo. No, non ve lo ricordo. Tom Ponzi, non so neanche se si chiamava veramente così. Tom Ponzi o era un soprannome. Insomma, se ci fosse un investigatore privato o uno che l'ha fatto, vi prego. 800240024 oppure 349-238-6666. Quello che sto cercando di fare io, più o meno, è questa cosa qui. Insomma, chissà perché, però gli investigatori privati sono sempre un po' buffi. Non lo so, magari è a me che vengono in mente quelli buffi, tipo Topolino, tipo Sherlock Holmes, appunto, ma anche Miss Marple, Magnum P.I., Poirot, il Tenente Colombo. Cioè, è come se per fare l'investigatore si dovesse avere una specie di leggerezza, qualcosa che ti estranea dalle brutte cose che poi scopri che vedi. Vabbè, comunque, l'idea di farmi da fare degli altri sarà pure nella mia natura, però quando poi l'ho veramente fatta, mi sono sempre sentito un po' ridicolo. Da quando ho deciso di capire di più di questa storia, della storia della scatola che ho trovato in bagno, mi sento veramente come il Tenente Colombo, ma senza impermeabile e pure senza sigaro. Allora, come sapete, ho trovato queste lettere che Agata, l'inquilina precedente della casa in cui sto adesso, aveva ricevuto dal suo amante Vincenzo. Mi sono fatto un sacco di domande sull'innamorarsi, roba che alla fine mi hanno anche un po' intristito, perché alla fine tutti gli innamorati sono felici e a quelli che non lo sono lasciano solo l'invidia. Vabbè, ma questa è una storia di tanti anni fa. Io sono rimasto appeso alla lettera che lei ha scritto, ma che non ha mandato a lui. Quella dove parla di un amore, parla di una gravidanza e parla anche di una fine. Ricostruendo la vicenda delle lettere, scopro che Agata è sposata a un falegname, il padrone di casa mia, l'ex padrone di casa mia, da cui ha due figli, che ha conosciuto Vincenzo, il suo amante, quando lui era a Milano per un viaggio di lavoro. Attenzione, parliamo degli anni 60, Cioè, per cui viaggiare comunque era un lusso. Questo Vincenzo doveva commerciare oggetti preziosi, credo. Tra le righe della lettera si fa riferimento anche a delle trasferte di Agata a Napoli. E anche qui deve essere stato abbastanza difficile inventarsi dei motivi e dei modi per andare a trovare il proprio amante. Non so com'è, però questa Agata a me sta già simpatica. E poi c'è la lettera che lei non ha mai spedito. Quella in cui confessa di essere incinta, di non volere tenere questo bambino, non volere portare a termine la gravidanza. Ed ecco che qui il Tenente Colombo si mette all'opera, quindi cerco di rimettere a posto tutti i tasselli del puzzle. Mi improvviso chiaramente investigatore e mi metto a seguire tracce, quelle che ci sono perlomeno, mi metto a fare delle ipotesi. È come se avessi un caso da risolvere. Cioè voglio scoprire com'è andata a finire questa storia. Mi sento un po' l'indagatore dell'inutile, roba che Dylan Dog a me fa un baffo. Per cui la prima cosa che faccio è telefonare all'amministratore, forse lui sa qualcosa. Ovviamente lo inicchia, dice mezze parole, sostiene che non può dare informazioni sensibili sugli inquilini o sugli ex inquilini. Insomma, lui è completamente inutile. Allora decido di chiedere ai vicini di casa. Sono abbastanza ridicolo effettivamente quando mi presento alla porta con un taccuino in mano. Mi manca giusto la pipa, però io fortunatamente non fumo. Fortunatamente però a casa mia io sono circondato da gente per bene, quindi nessuno mi manda veramente al diavolo. Solo che la maggior parte delle persone che aprono la porta quando suona il campanello ha più o meno la mia età, al massimo una decina d'anni in più. Inoltre la maggior parte non ha sempre abitato lì. Insomma, non ho nessuna nuova informazione. Finché non suona la porta dei Maggioni, i vicini che vivono nella casa a fianco. Loro sono una famiglia molto carina, ma che non incrocio quasi mai, perché hanno degli orari molto differenti dai miei. E mentre la signora mi dice di non ricordare niente, io percepisco nell'aria un profumo di acqua di Cologna che usava anche mia nonna. E siccome la faccia come la tolla, le chiedo: signora, le dispiace se entro e chiedo a sua mamma? It was against the law. And the mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Insomma, mi è andata bene. Esisteva veramente una mamma e nessuno mi ha maltrattato per non essermi fatto troppo gli affari miei. D'altronde, alla fine, sono già un po' un investigatore, no? Dunque, la signora è molto anziana, vive in un letto, ma è anche molto sveglia. E mi ha raccontato tutto di quella donna. Era una donna che era stata anche una sua cara amica, di cui lei sapeva parecchio. In quegli anni si ricordava anche di certi viaggi a Napoli. La sua dice che era una famiglia molto unita. Il marito era falegname e i figli erano due angioletti. Mi dice nomi e cognomi e poi mi dice anche che probabilmente lei sa dove trovarli e me lo indica. Ringrazio la signora e faccio per andarmene. Quando lei mi dice che però non sa dove sia finita la figlia più piccola, quella che ha avuto molto avanti con l'età, quella con i capelli scuri, quella vivace che studiava per diventare pittrice. Eccola lì. Allora in un attimo capisco tutto. Perché sono un investigatore e non sono mica uno scemo. Capisco che Agata non aveva spedito quella lettera perché aveva cambiato idea. Aveva deciso di tenere il frutto di quell'amore, di non coinvolgere Vincenzo per non dargli pensieri. Grande Agata. Sono già felice, ringrazio la signora, mi chino su di lei, le sfioro la fronte con un bacio, le tengo la mano del braccio libero sulla flebo. E poi scappo in direzione della falegnameria che mi ha indicato. E succede tutto in un attimo. E ogni tanto mi devo fermare per ricordarmi che cosa vado cercando e perché. Insomma, l'investigatore dell'inutile, via. Arrivato all'indirizzo che mi è stato dato, trovo un laboratorio di falegnameria. E quel che mi aspetto è di riconoscere chiaramente l'intera famiglia. E se possibile magari incontrare la signora che ha confezionato la scatola, che, come no, è lì, no? Così posso mettere a posto tutti i tasselli del puzzle e magari ridargliela sta scatola. A qualche incontro invece sono solo due tizi, scorbutici, uno pelato e l'altro no. Sono chini su un tavolo e stanno piallando. Hanno circa 50 anni. Si vede che non vogliono essere disturbati, si capisce subito, è una roba un po' milanese. Sulla parete c'è una grande foto di un signore che probabilmente sarà il capofamiglia, il papà. Io entro, cerco di essere simpatico e dico che forse loro vivevano dove io abito adesso e vorrei sapere dov'è loro madre. Ecco, non è proprio una grande tattica da investigatore, questa è un po' troppo diretta effettivamente, ma d'altra parte sono un dilettante. Infatti appena pronuncio il nome di Agata, loro si alzano verso di me. Eppure un po' mi spaventano. Mi spaventano perché sono i gemelli più gemelli che io abbia mai visto e a me i gemelli fanno paura. Nell'aria però c'è un buon profumo di segatura e un sacco di pezzi di legno che sono molto rassicuranti, danno all'ambiente un calore che i due effettivamente non hanno. Loro hanno due mani grosse e ruvide, si alzano verso il petto, si puliscono le mani mentre camminano abbastanza minacciosi verso di me. Nostra mamma non c'è più, tu cosa vuoi? E io in quel momento lì non mi sento per niente come Magnum P.I., anche perché non sono venuto qui in Ferrari ma con il tram. Mi sento solo come uno che si è fatto troppo facilmente gli affari degli altri e in più pensava di aver scoperto chissà cosa e invece non ha capito che stava solo dando fastidio. Insomma, è la storia della mia vita. Ma proprio per quello esco e ricomincio a cercare, perché io alla fine sono anche così. Ma quegli investigatori privati lì, quelli che ho citato, Miss Marple, Sherlock Holmes, Magnum P.I., non sono gli unici. Ce n'è uno che forse è tra gli ultimi, che è il più assurdo. Stropicciato, bye bye baby, e mi hai lasciato. protagonista di questa serie televisiva americana che è stata tradotta, poi la cui canzone è stata tradotta in italiano, non so da chi, ma è questa che sentite sotto. Era quella che sentivate sotto. La serie si chiama Bored to Death, che significa annoiato a morte. Il protagonista è questo attore. Allora, già non mi vengono mai i nomi degli attori e non mi verrà mai nemmeno adesso, anche perché probabilmente non lo so. È l'attore di Wes Anderson, che ha fatto i Tannenbaum e che ha fatto anche nel treno per il Darjeeling. Era l'amico di Clive Owen. Non Clive Owen, manco questo me lo ricordo. Cioè, quello biondino famoso, e poi c'era l'altro. Adesso Vittorio Mussini sta cercando. Lui è il protagonista di questa serie ed è uno scrittore in grande crisi creativa che viene lasciato dalla fidanzata e attiva una seconda vita. Lui di giorno scrive o cerca di scrivere e di notte, visto che è così annoiato, non riesce a dormire, si mette a fare l'investigatore privato. Va in giro chiaramente con un impermeabile che ricorda il Tenente Colombo, in più lui ha una faccia abbastanza assurda, ha questi capelli a caschetto, insomma andate a cercarvelo se vi capita di vederlo, credo che lo passino su qualche televisione italiana, si chiama Bored to Death, annoiato a morte. 800240024 349 2386666. Andiamo con ordine. Innanzitutto, lo stalking è per seguibile penalmente, mi dice Dario e altri, e Vittoria mi scrive anche pene fino a 4 anni di reclusione per molestie reiterate, che possono essere aumentate se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che è stata legata da relazione affettiva. Quindi ok, e lo stalking l'abbiamo sistemato. Poi, ciao Matteo, per la mia azienda ho dovuto stanare dei nostri colleghi che vendevano su internet senza averne il permesso. È stato divertentissimo, finti nomi, finti recapiti, ho beccato anche uno in Inghilterra. Monica da Milano, ciao, io per un anno ho seguito il marito di una persona a me cara. E poi ancora Simo, che non so se sia Simona o Simone, mi sono appartato con passamontagna a fare delle foto al marito di una mia amica che aveva un amante. Simona, 800240024 349 238 6666. Adesso la borsa e dopo vi parlo anche del metodo deduttivo di investigazione. Io sono qui. Nella foto siamo in riva a un fiume. È un fiume abbastanza arrabbiato, però, perché è un fiume in piena e che non ha nemmeno il colore di un fiume, perché è completamente marrone. La cosa che fa impressione è che siamo chiaramente dalla parte della riva destra, direi, del fiume, e si vede l'erba e a 5 dita dall'argine il fiume. Il fiume ha già travolto delle pianticelle che erano in riva, sulla riva, che probabilmente prima che fossero travolte era asciutta. In fondo c'è una casa abitata perché ha le finestre aperte dall'altra parte del fiume, e invece sulla destra c'è un ponte abbastanza piccolo, ma che dà la misura di quanto sia alto questo fiume, perché dalla passerella all'acqua ci saranno 50 centimetri. C'è una persona che ci cammina, sembra anche serenamente, su quel fiume, e il cielo è grigio. Non faccio molta fatica a capire esattamente dove siamo. Sono Giorgia Lera, ho 25 anni. A Cervarese Santa Croce siamo stati evacuati, ma per fortuna l'argine del Bacchiglione in via Molini ha tenuto. Io sono qui. Direi che di norma hanno tenuto tutti gli argini. Adesso non vorrei dire una stupidaggine, però non so a che punto siamo e come stiano le cose. So che è prevista ancora pioggia, però insomma mi auguro che vada tutto per il meglio delle parti del Veneto. 80024 0024 oppure 349 238 6666. Ciao Matteo, per la mia azienda ho dovuto stanare dei colleghi, questa l'abbiamo già letta. 10 anni fa sono rimasto nascosto tra 2 siepi per spiare la mia morosa. Ero proprio giovane, ma mi sono sentito un detective. Wow. Tra 2 siepi in che senso? Cioè, tra una e l'altra. Matteo, com'è andata con la ragazza della mensa? Sì, vabbè, ha voglia. Ma poi abbiamo le indicazioni su chi è il protagonista di Bored to Death e anche chi canta la canzone. Possiamo mandarla la canzoncina ancora un attimo? La bellissima versione italiana del telefilm è del cantautore emergente Brunori Sas. Da tenere d'occhio perché merita. Ciao Cristiana. Ha voglia di tenere d'occhio. Quante volte l'abbiamo amato già, Tiziano? Almeno 5 volte? Abbiamo amato 3 volte, 4 volte, non sa neanche Bonini. Però sappiamo che ci piace perché piace molto a Tiziano. Ed eccolo qua, il protagonista della serie si chiama Jason Schwartzman ed è protagonista insieme a Zach Galifianakis. Fosse uno leggibile. Comunque anche Galifianakis è quello grasso con la barba, è molto divertente. Andate a vedervelo. Mi è arrivato poi questo messaggio prima su Facebook che diceva: le mie coinquiline ed io seguiamo quotidianamente le mosse di un nostro vicino di casa che si frequentava con una nostra amica. Il poveraccio non può fare una mossa senza che la nostra amica lo venga a sapere. Non vorrei essere nei suoi panni. In realtà però lo sono, dal momento che siamo a nostra volta costantemente spiate dal vecchino del terzo piano. Cioè, perché chi di spiata perisce, no, ferisce di chi spiata perisce. Giusto, Federica? Pronto? Sono pronto, ciao Matteo. Ciao, senti, spiegami qual è la situazione esattamente. Allora, allora, chi era l'amica che è stata lasciata, immagino? Ma più o meno, in realtà è stata quasi lei a lasciare lui dopo che ha scoperto ovviamente che lui aveva degli intrallazzi extra, diciamo, relazione. E allora però nel momento in cui è finita, che ve ne fregava, che gliene fregava di continuare a seguirlo? Ma perché lui continua a cercarla e lei vuole verificare che effettivamente lui non le menta. E, cosa avete scoperto voi? Ma in realtà abbiamo scoperto che lui torna a casa la mattina alle 7 quando in teoria dovrebbe aver dormito a casa, che al posto che andare in palestra non torna con la borsa della palestra e cose del genere. Ma come fate a scoprirlo? Vi appostate? Lo guarda... No, in realtà non ci appostiamo, però in casa siamo in quattro. Lui per tornare a casa deve passare prima sotto le finestre delle nostre camere, dopo sotto la finestra della cucina e nel frattempo dal portone dal quale entriamo e usciamo noi. Ma la tua amica vive con voi? No, la nostra amica abita poco più in là. Quindi lui ha solo la sfortuna di abitare di fronte a voi? Bravissimo, tra l'altro, cioè, lei non l'ha conosciuto perché è un nostro vicino, l'ha conosciuto altrove e dopo ha scoperto essere un nostro vicino, quindi è stato doppiamente sfigato, poveraccio. E invece parlami del vecchino sopra casa tua. Il vecchino, praticamente un giorno l'ho incontrato per le scale, era un annetto che abitavo lì, non l'avevo mai visto, e ho scoperto che questo sa dove parcheggio la macchina, quando vado, quando torno, quando vado in vacanza, quando vado a fare la spesa. Ma perché, scusami? Non si sa, secondo me l'unica cosa è che lui passa le giornate o alla finestra o al balcone. E certo, sa tutto. Ma scusami, Federica, ma tu dove abiti? In che città abiti? A Milano. Ma non ci sono, e non ci sono dei cantieri aperti nella tua zona? Di solito i vecchini, se ci sono dei cantieri, vanno per strada e il tempo lo passano. No, purtroppo non ci sono cantieri aperti vicino a casa mia. Non fa altro che passare le giornate a spiare il condominio, perché poi quando lo incroci ti racconta la rava e la fava di tutti. Va bene, Federica, ti ringrazio molto e buona giornata. Grazie a te. Ciao, alla prossima. Andiamo sempre a Milano, andiamo da Fabio, che quando era giovane ha fatto l'investigatore privato. Pronto, Fabio? Ciao Matteo, ti ascolto tutti i giorni. Magnifico, ed è quasi un che mi stai curando, intendi dire? Assolutamente. Tu hai fatto l'investigatore di mestiere? Sì, io mi occupavo di pedinare la gente, tra l'altro inseguimenti in macchina con un 127 alimentato a gas metano, perciò ti lascio immaginare. Inseguimenti o pedinamenti? Pedinamenti, anche inseguimenti un paio di volte quando si accorgevano di avere una persona tra le calcagna. Ma chi erano i tuoi clienti, Fabio? Scusami, chi ti chiedeva di pedinare? Era un'agenzia che prestava soldi, io dovevo trovare il cliente che aveva perso il lavoro o che lavorava da un'altra parte, perciò io intervenivo con l'ufficio del personale della nuova ditta per cui lavorava. E gli obbligavo con delle lettere del tribunale a farmi dare i soldi. Senti, perché hai smesso e cosa fai adesso, Fabio? Sono un tassista di Milano, ho smesso perché una volta mi hanno arrestato i carabinieri, un'altra volta mi ha riempito di botte e non era proprio il lavoro che facevo. Ma mi sono divertito. T'hanno proprio sarcagnato? Sì, perché una volta ho avuto a che fare con gente pesa e mi hanno attaccato al muro, classiche gambette che penzolavano nel vuoto e perciò... Con gente pesa non è male, proprio di Milano. Fabio, grazie mille, buona giornata. A te, grazie. Ciao, alla prossima. Fabio è un tassista e non è l'unico tassista che ci ascolta, perché anche Raffaella è una tassista e fa l'investigatrice per caso. Pronto, Raffaella? Pronto, buonasera. Ciao, buonasera. Tu fai... Scusami, mi spieghi, a parte che sento le quattro frecce... Io sono quindi... cioè, lavoro col taxi dal 2002 e quindi ne ho sentite tante di storie, tanto che le ho raccolte in un blog che si chiama Psicotaxi. Mi piace raccontare le storie che... Cioè, tu hai un blog che si chiama Psicotaxi? Psicotaxi, sì. Dacci l'indirizzo preciso... Ma un po' per via dell'effetto treno, cioè nel senso quando uno sale sul taxi, incontra uno sconosciuto, forse gli viene più facile, in questo caso una sconosciuta, gli viene più facile magari a volte raccontarsi. No? L'effetto treno, anche perché certo. Il traffico a Milano è drammatico, sì. E quindi a volte si rimane insieme, imprigionati e ci si racconta. Sì. A volte mi piace anche raccontare le storie che accadono anche ai colleghi e sono sempre le più, veramente le più incredibili. Senti Arianna, dimmi esattamente l'indirizzo del tuo blog, così ce lo andiamo a vedere. È www.psicotaxi.com.